avanti. Sì, K, come sto uscendo? Molto bene, ti adotto. Ah, sei movimento, franco da parte mia. È un mic normale, si sente molto, è un mic normale. È tipo telefonata? Sì, si sente bene comunque, franco. Aspetta, provo a cambiare il microfono. Con questo cambia. Allora, non vorrei sbagliare, ma prima eri più chiaro, anche se si sente bene, però l'altro mi sembrava più roboante. Questo è amplificato, dai. L'altro era normale, quindi parlavo da vicino, con questo sto parlando da lontano. Ah, allora è perfetto, perché sì, in effetti ero in macchina sentendo bene, adesso si sente qualche rumorino di fondo, quindi è amplificato, l'altro era normale. Adesso ti sto perdendo il segnale. Allora, adesso il segnale mi arrivi qua a fondo scala, io ho un piccolo CB da auto. No, poc'anzi eri forte, adesso mi sei sceso da Santiago 1-2. Beh, adesso sono praticamente quasi giù via Sorso, capito? Sono in quel posto là. Allora è per quello, dai, quindi finché non esci da lì. Solo che sono bloccato perché c'è una macchina che deve girare, bloccato ci sono almeno 10 macchine in fila. Quindi se mi dai un attimo, adesso mi sa che si sono smorsi un pochettino. Poi riprovo l'altro microfono dopo, Ok, magari ti faccio una bussata e quando sono in posto più aperto. Ecco, questo è il microfono normale, da palmo, dai. Sì, è chiaro comunque. Va bene, potrebbe andare? A voglia. No, lo provo questo, perché in macchina ne sto usando uno uguale a questo e mi dicono che sto uscendo male, non so se sia l'apparato o se sia il microfono. Proverò a cambiare il microfono, tanto sono uguali. Mari sta partendo la capsula. Per me è chiarissimo, Franco, io non so da che zona stai modulando, tu sì, adesso a casa, eccetera, però mi arrivi bene qua. Sì, sono stazione fissa qui, diciamo Monte Rosello Basso, però è molto basso, più basso di te. Ho capito, adesso praticamente sono al semaforo. Di via Sorso, al ponte? Sì, esatto. Stai aumentando un po'. Nel posto lì ti stavo quasi per perdere. Anche col telefonino lì non dicevi bene. Sì, adesso ci sono. Certi punti mi sei arrivato anche 9.10, 9.20. Oh, sto uscendo, sì. 4 watt. Sì. A volte se non premo bene non schiaccia il PTT. Sì, si spegne anche poi il Roger Beep. Qui non si può togliere, è fisso. Lo senti il mio? Sì, è un trrr così, che va dal basso verso l'alto, fa 2-3 squilli, dai, trrri. Sì, ok, perché l'ho inserito e adesso mi viene toglierlo perché sto guidando. Ma non... Porca, se non stremo bene non esce di radio. Non dà fastidio perché non è fortissimo. E adesso lo lascio. Poi nei prossimi giorni magari vedo se un attimo di tempo. Adesso sto andando a lavorare ad Alghero, all'aeroporto, io lavoro là. Niente, siccome in questi giorni c'ho anche da battagliare con i muratori che stanno rifacendo il bagno, quindi avanti, indietro, comprando materiali, su e giù, e adesso c'ho il turno di lavoro, a rientrare stanotte all'1:30. Caspita, aspetta che cambio di microfono, questo mi sta rompendo le scatole, se non premo bene non esco di portante, un attimo. Lasciamo questo da tavolo che è meglio. E quindi ti do, perché adesso devi essere vicino, molto vicino a me. Adesso sono al semaforo giù, che via è qua, non mi ricordo come si chiama questo pezzo. Come si chiama? Via... Ma dove c'è San Arredi, dai. Semaforo lì, adesso sto svoltando per andare diciamo al semaforo che poi va a scavalcare via. Sì, sì, quello lì è il punto più vicino a me, da lì in poi ti allontani. Il semaforo di Costa Trinità, quello è più vicino. Poi se vai verso Alghero ti allontani da me. Ok, anche se diciamo che io ad Alghero sento Gianfranco, Claudio, Roberto, Luca, che è sempre zona morte, mi sa. Ma loro hanno l'antenna sul tetto, io ce l'ho sulla finestra, capito? Nel davanzale. Ah, ecco, cos'è, una boomerang, tipo quelle antenne là? No, no, è un'antenna tipo canna da pesca, è già in lunga, soltanto che non arriva, la punta non arriva a superare il tetto, capito? Ah, ho capito, comunque diciamo per magari la trasmissione in locale, città, penso che già arrivi bene comunque. Sì, sì, Alghero difficilmente riesco a sentire qualcuno, un pochettino Porto Torres, un po' Sorso, basta, poi il resto è tutta la roba locale, dagli punti Sassari. Neanche Ossi, Muros, che c'è Claudio a Muros, mi sa. Li ricevo molto bassi, li sento, ci parlo, però sono a livello di segnale di 1-2 di segnale, di Santiago, la radio bassissima, se c'è un po' di QRM già li perdo. Ah, ho capito, sì, certo, loro a Sassari magari non arrivano con segnale di 9, magari io Claudio di Muros a casa mia, via Luna e Sole Alta, mi arriva a Santiago di 8 e 30, poi. Sì, no, se sei sulla parte alta, diciamo, di Sassari, nel Cucuto, lì arrivano fortissimi. Mi ricordo da Roberto, da Claudio arrivano segnali forti quei paesi lì, perché sono alti tutti e due, si vedono. Io invece sono nella parte bassa, quindi per arrivare a Ossi devo superare tutta la città, e così Muros e cose varie. Ho capito, sì, beh certo, magari sei penalizzato anche perché non avendola nemmeno sul tetto, diciamo qualcosina perdi, proprio per quel motivo. Qualcosina parecchio perdo, perché è attaccata al muro, praticamente l'antenna rimane un palmo dalla facciata, là. Poi ci sono queste cavolo di pompe di calore, quando le accendono mi disturbano un po', ma non ci posso fare niente, là. E purtroppo quando non hai lo spazio devi fare qualche compromesso, capito? E purtroppo è così, io già ne so qualcosa, da prima che avevo un terrazzo grande dove potevo fare quello che volevo, adesso anch'io in condominio, diciamo, anzi mi sono sistemato bene, sono riuscito a salire sul tetto, c'è una casetta abbandonata, un vecchio vaso d'espansione del vecchio impianto di riscaldamento, e lì ho potuto mettere le staffe e ho messo il tubo telescopico e quindi sono anche molto alto. Ma hai sempre il dipolo, cioè cos'era? Una specie di dipolo orizzontale, cos'era? Se non ricordo male. Sì, esatto, ma l'ho girato, adesso è in verticale. Quindi sicuramente adesso ti ascolteranno un po' tutti, magari perdi in certe direzioni dove era puntata, ma guadagni magari a livello generale. Sì, esatto, infatti quando ce l'avevo in orizzontale in SSB mi sa che c'è 13 watt, perché ho la radio omologata anche a casa, AM/FM esce con 4 watt, in SSB in bande laterali esce con 10 o 13, adesso non ricordo, ho collegato l'Indonesia addirittura. In direttiva, caspita, sicuramente deve essere una bella cosa, trasmettere in direttiva, in orizzontale. Sì, sì, esatto, poi ho sentito parte degli Stati Uniti, si sentiva, come però l'ho girata adesso in verticale, diciamo sento più l'Europa, capito? Spagna, sento le Baleari, tutte quelle zone là. Vabbè, comunque deve avere una buona zona, se è una zona aperta, vai. Sì, sì, no, la mia già è buona come zona, anche perché, diciamo, non ho palazzi più alti dei miei, quindi la mia svetta, praticamente vicino a dove c'è la palazzina della Telecom, non so se sai dove sono tutti quei ripetitori, capito? E io sono là, da una parte non ho altre abitazioni, e dall'altra quelle che ho sono molto più basse, quindi io infatti dal tetto quando salgo su riesco a vedere l'Asinara, il mare, capito? È tutto aperto. No, non so dove c'è questo ripetitore, ce n'era uno dove era, via gli astronauti, no, quella zona lì? Sì, esatto, io praticamente dall'altra parte c'ho via degli astronauti. Io sono in via Dau, capito? Via Dau, cioè l'asilo, lì ci portavo mio figlio quando era piccolo. Era sotto un palazzo, in via Dau, c'era un asilodino. Bravissimo, che c'erano Franca e l'altra non me lo ricordo, anche io li ho portati lì i miei. Qualche anno fa, adesso ne ha quasi 30. Sì, c'era Lorella, erano tutte sorelle. Io li ho portati, adesso i miei sono grandi ovviamente, uno ce l'ha all'università, l'altro è alle scuole superiori, quindi qualche anno fa non c'è più quell'asilo, avevano chiuso poi. Ti sto quasi per perdere. Ah, no, non c'è più addirittura. Io ti parlo di quasi 30 anni fa, Sì, ha chiuso almeno una decina d'anni fa. Vabbè, peccato, dai. Non so se mi senti ancora, Io ti sento bene, adesso ho iniziato la quattro corsie, ho passato con Forama, sono su quella salettina sulla quattro corsie. Io con la parte sono già coperto, l'antenna praticamente non ti vede più, cioè non ti vedevo neanche prima, ma adesso c'è proprio tutto il palazzo verso quella parte lì. Io ti sento ancora bene, segnale vedo che Santiago di 4 è sceso un po', però ti sento bene ancora. Io sono anche con qualche watt in più, capito? Quindi figurati. Ho capito, sì, arrivi ancora bene, magari se ti perdo ti saluto Franco e speriamo di risentirci presto, dai, su questo canale, io generalmente ascolto a volte perché non posso sempre parlare. Kappa, ti sto perdendo, dai, ti saluto, magari se sei in qualche zona più aperta, quando inizi a salire, magari ti ascolto nuovamente. Comunque ritieniti salutato. Ciao Franco e ciao Carlo. Non so se sta parlando, ciao Giù, perché io lo sto perdendo e tu magari lo senti meglio adesso. Sì, ancora lo sento. Ciao Carlo, buon viaggio, stai andando al lavoro? Ok, sì, ancora io ti ascolto bene. Ancora ti ascolto molto bene, non c'è problema. Ciao Franco, e allora? Stavo provando il Nike normale, perché visto che dalla macchina usciva male, qui ne ho un altro che lo stavo usando col valvolare, gli ho cambiato di nuovo i poli, le saldature. Adesso te lo faccio sentire, dai. Ok, prova, non c'è problema. E allora Carlo, la giornata mi sa che si sta rovinando. Sono molto, magari pioverà. Sì, in effetti è così. Aspetta che forse c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti, chi è che vuole entrare su questo canale? Entro io, guarda, vedi un po' Giulio, col mic normale. È bellissimo, fa. È una bella radio, molto bella, pulita, chiara e anche forte. Sì, è probabile che sia il microfono in macchina oppure la radio, come ho fatto le regolazioni dei watt, magari ho peggiorato un po' in modulazione. Proverò questo, il mic, e poi dalla macchina mi farei sapere, dai. Ok, d'accordo, Fra. D'accordo. Vediamo, richiamo di nuovo Carlo. Avanti Carlo. Ok, ho capito. Insomma, stai incominciando ad essere un po' lontano. Sì, però ti sento ancora bene, non c'è problema, Carlo. Sì, certo. Come abbiamo la posizione migliore di tutti è praticamente a Sassari, anche se un po' all'esterno di Sassari, per cui lui sente chiunque, sente anche le mosche volare, non c'è problema. Bene, bene, vediamo un po' se è rientrato Franco. Hai cambiato Fra? Sì, sì, no, l'ho rimesso lo sciure, sto sistemando il saldatore, dai, adesso che è freddo. Beh, ok, vabbè, lo sciure è lo sciure, Fra, non ci sono dubbi. Però anche l'altro era un bellissimo microfono, abbastanza buono, chiaro, molto chiaro. Va bene che magari la tua timbrica è eccezionale, per cui si addice molto a qualsiasi microfono probabilmente. Ma insomma, così è. È un po' nasina la mia voce, un po' di deviazione del setto nasale. Vediamo un po' se riesco ad ascoltarlo. Dove è arrivato l'amico Carlo? Come si chiama Carlo? Se non sbaglio. Sì, Carlo, è andato oltre il bivio della dentiera. Avanti, Carlo. Sentito Fra, lui ti sente ancora, ti sente bene, lui è già al bivio di Lago di Baras, dove c'è il fornitore più o meno, dai, in quella zona lì, vai Franco. No, purtroppo non lo sento, poi chiedi anche che tipo di antenna sta usando, se è un'antenna lunga o se è corta, dai, io non lo sento più, io forse mi sente perché c'è qualcosina in più. Sì, infatti è così. No, ma io so che lui usa un antennino piccolino, sì. È vero Carlo, stai usando un'antennina piccolina. Tu a Franco lo senti perché sta usando un aiutino, Ok Carlo, sì è così Fra, come ti ho detto, adesso sto incominciando a perderti, Carlo, sto incominciando a perderti, adesso si è arrivato molto ma molto basso, ho dovuto mettere l'orecchio sull'apparato per ascoltare, se no non capivo quello che dicevi. Avanti Franco. Purtroppo anch'io, appena passi diciamo il vertice verso le quattro corsie, verso il medio, già da lì io non li sento più. Purtroppo è così Giulio. Buonasera. Ciao Claudio, buonasera. Ecco, abbiamo Claudio, ciao Claudio. Sicuramente lui riesce ancora a sentire Carlo in maniera decente, dai. Vediamo un po'. Avanti Carlo, è entrato Claudio, sicuramente l'hai sentito. Arrivi magnificamente bene, non so se tu ascolti a me, comunque arrivi magnificamente bene, cambio. Ascolti a bombolone, un tempo era bomboletta, adesso c'è anche il bombolone, molto bene. Ciao Carlo, buonasera, ben ascoltato, segnale con QSB da 9 a 5, vedi tu, se ti va bene, nella mia zona vuol dire che è come quella di prima, non ci sono problemi. Ciao Giulio e ciao anche a Franco, buonasera a tutte e due. Ok, riprendo io, allora, non so se sto sovrammodulando, ma non credo, Sì, no, io direi che addirittura migliore, Claudio, la tua zona è addirittura migliore di quella che avevi prima. Lascia stare il discorso, segnale verso la mia parte, eccetera. Devi considerare l'altra parte della Sardegna. Quella sicuramente ha avuto un guadagno molto, molto elevato, non ci sono dubbi. Ti mando avanti Franco per i saluti. Avanti Fra. Sì. Ciao Claudio, ripeto, è così, puoi magari migliorare o peggiorare leggermente in qualche zona, ma sicuramente in altre migliori alla grande. Ma diciamo che non ho peggiorato da nessuna parte, ho perso qualche punto S, ma niente di che, l'importante è che ci sentiamo, cioè se al Sorso prima arrivavo 9, adesso arrivo 8, non è un problema. Se da Giulia arrivavo 9.18 come mi dava lui, adesso arrivo 9.10 o 9.15, non lo so, non è un problema. Il problema è che io ascolto tutti come prima, tutti. Alghero mi arriva fortissimo come prima, senza parlare la zona oltre Scala di Ciocca, mi arriva fortissimo, Oschi, Riottieri, Budesò, Patara, come sempre, quindi non ho, diciamo, non mi posso lamentare. Ok, vediamo un po' se Carlo ancora è in aria. Carlo, buonasera, cambio. Io ti ascolto anche se sei in mezzo alla fila degli alberi, a Tottobella, arrivi benissimo, senza nessun problema. Do il cambio a Giulio e arrivo subito. Vai Giulio, cambio. Ok, sì. Non so se lui mi ascolta adesso, io non lo sento più, Carlo, io non ti sento più. Adesso cosa vuoi fare la ponte Claudio, mi dirai se tu mi stai ancora ascoltando. Intanto nel frattempo io passo il microfono a Franco. Vai Franco. Mi stavo sbagliando, stavo schiacciando il microfono, quello che l'ha attaccato. Ehi, dai, rilanciamo a Claudio così ci dirà se ci sente ancora lui. Avanti Claudio. Sì, si è allontanato. Un attimo di pazienza Carlo, che Claudio si è allontanato, poi lui ci farà la ponte, così vediamo di accompagnarti il più lontano possibile, almeno hai un po' più di compagnia, dai. Ci fa piacere se riesci ad ascoltarci tutti. Bene, bene, non lo so. Vediamo se è rientrato Claudio, così ci può fare la ponte, Claudio. Claudio è il nostro ripetitore, anche perché tra un po' lui arriverà al punto di lavoro, penso dovrà chiudere. Quello è vero, non avevo capito che lui era sulla strada Berratta che c'è lì dopo Tottobella, eccetera, per cui era nella fila degli alberi e lì magari può darsi che mi perdeva anche, non lo so. Comunque, sì, beh, lui dice Claudio che ha perso, Claudio lo dico che ha guadagnato, non ha perso, perché i conti non si fanno in una sola determinata direzione, i conti si fanno a 360 gradi, per cui lui nella posizione in cui si trova, io scommetto con chiunque che lui ha guadagnato, perché ha perso qualche punto S qui nel centro della città, eccetera, però ha guadagnato sicuramente molto di più di quanto ha perso verso la parte Ottieri, eccetera, eccetera, e lì in fondo, addirittura Oristano, io l'ho perso così, Ofra. Sì, no, anche qua, ripeto, ha perso, ma perché prima le nostre antenne magari si potevano vedere, perché lui è in alto, io sono sotto, anche se sono coperto mi vede. Invece adesso proprio io, praticamente lui è dalla parte opposta, diciamo, di Sassari, io non lo vedo più e quindi naturalmente che il segnale si abbassi. Però ripeto, i conti come dici tu si fanno a 360 gradi, alla fine si fanno i conti, quindi nel totale, dai. Ma nel totale non è che uno, io a volte ascolto, cioè quanto ti arriva? Vai 9 più 40 che te sei a 150 metri, oppure ce l'hai in vista ottica. È importante, come abbiamo sempre detto negli anni abbiamo sempre detto, che è importante arrivare, perché se uno non arriva, è inutile faccia le prove, io sono qui, io sono là, tu sei forte dentro città, perché c'hai il corrispondente che lo vedi ed è a 200 metri da te. Prova a fare le prove a lunga distanza. A vedere, quello è avere il corrispondente, è sentire tutti, io sento tutti fra da qua, tutti, io l'altro giorno ero a 27.500 e rotti ascoltando, c'era una diretta tra Cagliari, Oristano, Nuoro e Macomer, arrivavano tutte e quattro. Poi lì è una zona pulita, non hai nessuna interferenza, quindi sicuramente ricezione guadagni al 100%. Avanti Giulio, poi rilanciamo Carlo perché sarà arrivato in prossimità del posto di lavoro. Ok, riprendo io. Sì, certo. Sì, ma è così, Cla, tu non devi dire che hai perso, tu hai guadagnato, non c'è niente da dire, perché guadagnare, segnare punti S dove già ti sentono, non è così più importante, nella maniera più assoluta. Importante è sentirti dove non ti sentivo prima. E questo è il discorso che faccio io. E del resto, il conteggi, la matematica non è un'opinione. E se tu la estendi a 360 gradi, il risultato è quello. Il risultato positivo ti dice che hai guadagnato. Non puoi dire che hai perso, nella maniera più assoluta. Perché allora non c'era niente di sentirti 9,18 o 9,20 e ti dicevo 9,10 per dirlo, che mi va benissimo. Magari quelle che ti ricevevano, che so io, Santiago 2, o quando ricevevi tu Santiago 2, ti ricevo 5, 6, 7. Ecco qual è la differenza. Prova a chiamare a Carlo o Claudio, fa da ponte. Sì, vediamo un po', Carlo, dove sei arrivato? Sì, K, ma sei già dentro l'aeroporto oppure sei ancora in prossimità dell'aeroporto? Dove sei? Nella zona? Ok, ok, se avessi avuto un'antenna più performante ti avrebbero sentito anche gli altri. Il tuo segnale qua è 5-5, è strepitoso veramente, 5-4, 5-3, 5-5, ma sapendo le tue condizioni è veramente molto molto interessante, veramente, non avevo ancora fatto queste prove, assolutamente. Quindi è già quasi arrivato alla QRL, ma non mi sente più, non mi sente proprio niente, vai Giulio. Ok, dunque a me non mi sente, allora come me, d'altronde se ha un antennino di quelle corte, magari con l'antennino più lungo, sicuramente avrebbe avuto un'altra possibilità d'ascolto, non ci sono dubbi. Va bene, pazienza, dai, non so se sta ascoltando in quest'ultimo passaggio, io eventualmente lo saluto, se non lo saluti tu o Claudio al mio posto e anche magari al posto di Franco, perché intanto sicuramente la volontà di Franco è anche quella che sto dicendo io. Vai Franco. Sì, capa, dai, salutalo, auguragli un buon trabacco, un buon lavoro e ci risentiamo magari quando sarà qua in zona. Dai, avanti Claudio. Sì, quasi quasi ti ha sovramodulato. Dimmi, o Carlo. Gliel'ho già detto che non li senti, sei arrivato in aeroporto, stai parcheggiando perfettamente, hai fatto un segnalone, guarda, ti ho sentito sotto Franco, quindi immaginati tu, veramente strepitoso, ok, queste prove non sono mai state fatte. Mi saluta cordialmente e sta scendendo per andare al QRL, sia a te Franco che a Giulio, ok? Sì, dagliele anche da parte nostra, Molto bene, ti saluta sia Giulio che Franco, Carlo, poi ci sentiremo in altre occasioni. Ti auguro buona serata e buon QRL, ok? Ciao, ciao, grazie a te per essere intervenuto. Vai Giulio. Ok, pensa che sento il bisbiglio, sento che sta modulando, però non capisco quello che dice. Va bene, dai. Ciao Carlo, anche se non mi senti ti saluto ugualmente, non c'è problema. Sì, ma è così Ocla, e dunque a questo punto tu, tornando al discorso che avevamo, non puoi assolutamente dire che hai perso, no, tu hai guadagnato, capitina. Il discorso è sempre quello qua, io preferisco farmi sentire a 360 gradi che per dire in una sola determinata situazione, anche se ho perso punti verso quella posizione, chi se ne frega, anche se ho perso e mi sento lo stesso, non cambia niente, non assolutamente, mentre invece cambia molto se mi sentono dall'altra parte dove prima non mi sentivano, e io la penso così. Avanti Franco. A me non mi sentite su un piccolo basso e nero, comunque buonasera, dai. Sì, sì, sì, Calimero, basso e nero, sì, ti sentiamo. Ma è così, dai, lavorerei io quella zona, quell'apertura che c'è lui. Avanti Claudio e fai entrare il nuovo inquilino. Ecco, effettino, Santiago 9, Radio 5, Tino, ma anche con te... quando sei dentro il Alberghiero in macchina, che sei in una posizione che io ben conosco, che Alberghiero la conosco, l'unico che ti fa sempre entrare sono io, quindi non mi posso lamentare. È così Giulio, va bene, è meglio perdere qualche segnale in città, ma avere a 360 gradi tutte le posizioni che ci spettano. Avanti Tino, buonasera, ben ascoltato, 5-9 segnale per te. Ehi, ciao Claudio, ciao a tutti, dai, non so chi c'è, sono in movimento che sto portando il mezzo a farlo controllare, dai, che è troppo assorbimento di batteria. K, Santiago 9, ma dove sei, dentro Sassari o fuori? No, sono quasi all'ottava. Vai bene, Santiago 9, Giulio, non fa testo perché le stai passando vicino, vai Giulio. Ok, ciao Tino, ben ascoltato. Troppo consumo la batteria, evidentemente c'è qualche assorbimento inopportuno. Ti mando avanti Franco per Tino. Sì, sì, ciao Tino, io qui ti ascolto, non benissimo, però ti tiro ancora fuori, la parte per me è un po' coperta. Avanti Tino. Ehi, ciao Fra, vabbè dai, sono staccato, sono con 4 watt e basta, questo è liscio liscio adesso. L'ho staccato perché pensavo che assorbiva voli, capito? Certo, no, comunque il segnale 5 è una radio di 4-5, buono dai, c'è un po' di QSB che si è in movimento, avanti Cla. No, arriva benissimo, qua 5-9, segnale ottimo, segnale molto performante, la radio è ottima, nessun problema Tino. Andiamo, dai, sono arrivato, ci sentiamo, devo mollare il mezzo. Ciao, divertitevela, magari se coincide a più tardi. Riprendi Giulio, ciao. Ok, ciao Tino. Quasi 9 più 15 in questo momento mi hai fatto, per cui i monodati arrivavano anche a 9 più 20, perciò figurati un po'. Va bene, dai, ci sentiamo le prossime. Grazie intanto per essere entrato a salutare. Avanti Franco. Sì, capa, saluto anch'io. No, l'ultimo passaggio è arrivato benissimo, aveva dei picchi di modulazione allucinanti. Sembrava QSB, invece no, erano proprio picchi di modulazione. Complimenti, bella radio. Avanti Claudio. Sì, fatemi attaccare questo cavettino, lo riprendi giù. Ok, d'accordo, qua. Non c'è problema, siamo qua. Volevo chiedere, non so se tu l'hai più sentita, vabbè dopo mi rispondi qua. Non l'ho più sentito a Marco Condor. Boh, evidentemente no, o non ha più voglia, oppure ha qualche impedimento, non lo so. Speriamo di no. Comunque, che rientri. Avanti Fabio, prendi tu intanto con l'audio, si è assentato un attimo. Sì, questo problema ce l'avevamo posto anche qualche mese fa, allora per il sicuro io l'avevo chiamato per telefono. Era un po' così, un periodo un po' che non aveva voglia di entrare, a volte fa un po' di ascolto, ma come dici tu, è un periodo un po' no, dai. No, sono qua, c'è qualcuno che ha chiamato Giulio, chi è? Ho capito Carlo, quindi non sei ancora sceso dalla macchina, stavi ascoltando, ma lo senti a Giulio? Ah bene, senti Giulio e anche Franco, però loro non ti ascoltano purtroppo, vediamo un pochino, Giulio lo senti? No, non lo sento, assolutamente, Carlo, non ti sento, mi dispiace, purtroppo tu con l'antennino piccolino non hai molta spinta, dai, diciamo, mettiamola in questo modo, per cui magari sostituendo l'antenna, mettendo quella più lunghetta, sicuramente avrai più ricezione e soprattutto più trasmissione. Ti mando avanti Franco, così anche lui dirà la sua, vai Franco. Sì, purtroppo anch'io zero, eppure non ho QRM adesso, non ho disturbi di pompe, ma purtroppo Alghero, per me la zona di Alghero è negativa. Non sento neanche quelli, diciamo, con l'antenna fissa sul tetto, con la mantova e cose varie. Figuriamoci un antennino, purtroppo è così. Avanti Claudio, ho sentito anche una bussata, riportante, buh. Non lo so, io non l'ho sentita. Carlo, hai sentito qualcuno? D'accordo, allora non riprendi più, un abbraccio grande, buon QRL, buon tutto e ti faccio appunto, ti mando nuovamente saluti sia di Giulio che di Franco, ok? Cordialità e alle prossime, ciao ciao. Via, ti tocca, dai. Ok, allora riprendo io. Ciao Carlo. Se stai ascoltando, visto che hai ascoltato quell'ultimo passaggio, probabilmente mi senti anche adesso, vabbè. Avanti Franco. Capa, non ti invidio per l'orario, comunque buon lavoro. A quanto pare finisce verso la 1:30, Avanti Claudio. Vabbè, gli orari di lavoro sono orari di lavoro, purtroppo è così, c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, bisogna sempre stare alla... al tocco degli altri, diciamo, dai, va bene, va bene. Avanti Giulio. No, per rispondere a te, neanche io ho più sentito il carissimo Ratta Pignara, non l'ho più sentito, ma era entrato un giorno dicendo che aveva appunto delle difficoltà, delle cose da fare eccetera, e che quindi si assentava un pochino, ma ogni tanto si sarebbe affacciato, invece niente da fare. Vabbè, quando magari ci sono delle circostanze, ma la mamma non sta bene, lui è un po' così, capito? Quando non sei sereno a fare radio è sempre un casino. Va bene, avanti Giulio, a te il cambio e via, vai, fai girare per Franco. Ok, beh certo, sì, speriamo bene che non ci siano dei problemi, che tutto fili liscio, così almeno siamo più tranquilli un po' tutti, dai, perché già ne abbiamo abbastanza in questo periodo, tornando al discorso di quell'amico che c'era per un paio di giorni o alcuni giorni là in quel QTA, speriamo che non succeda più per nessuno. Avanti Franco. Sì, sì, speriamo che non ci sia niente di problematico, che sia solo un po' male, un momento che... Come a volte anche capita anche a noi, sono dei momenti che non è voglia, che c'è altri interessi o altre cose, magari la metti un po' alla pazza la radio, ma poi a volte ti ritorna sempre. E come dicevo stamattina a Giulio, domani secondo se fa del tempo buono provo la verticale lì attaccata all'albero da Alghero, domani sera, Claudio. Ok, d'accordo Franco, speriamo di riuscire ad ascoltarti. Claudio sicuramente ti ascolta, questo ne sono più che convinto, perché ripeto, ancora una volta, con la posizione che lui ha adesso, ha vinto al totocalcio, ha vinto al totocalcio la potenza della radiofrequenza. Vai Claudio. Sì, ma mi sembra che ti ascoltavo già da quella posizione, Fra, a quanto mi ricordo io. No, domani porto la canna da pesca, quella che provavo prima, no? Ho fatto qualche modifica, anche se devo cambiare il radiale, diciamo, quello della parte alta, che l'ho messo da 4, e mi sembra troppo grosso, troppo pesante per la parte, diciamo, finale della canna, tende a piegarsi un po'. Provo a mettergli uno da un cavo da 1,5, più sottile, tanto non ci devo attaccare niente, dai, e magari rimane più dritta la canna. Andiamo, chi è? Buonasera, avanti. Andiamo. Chi è? Casarella. Ah, il suo buco qua, di Luca. Ciao Luca. È sempre bene andare in due, io credo che andi bene. È meglio così, meglio andare bene che andare male. Io credo che... Oh, vi lascio un po' che metto un po' di ordine gli attrezzi, dai, vi ascolto. D'accordo, cara. Allora rientra subito appena fuori. Luca, riprendi. Ehi, c'è una pattuglia di polizia qua, Santa Maria di Pisa, se sta seguendo a qualcuno. Sta entrando anche a contromano, boh. Non mi manca pattuglia. No, mi sembra un po' di commercio, no? E lo sai lì come fanno? Quelli si commercia molto a polverina, si commercia, finché non c'è la meravigliarsi, no? È la zona più dibattuta dalle forze dell'ordine. Vai Claudio. Allucinante che... lì, caro mio, venuto a vanno. Non c'è niente da fare. Magari chissà cosa stanno cercando, non lo so, vabbè. Cosa stanno cercando? Loro sono sempre su chi va lì, perché lo sanno che lì continuamente c'è smercio e allora fanno dei controlli e magari hanno avuto anche la soffiata o addirittura hanno visto loro o qualcuno che deve essere pedinato. È chiaro che facciano così, ed è giusto, ma speriamo che li eliminino tutte queste persone, per carità, che vergogna, non lo so, io sfolcare un quartiere perché ci sono 4 pellegrini che hanno quel sistema di vita, per carità, che vergognoso. Vai Luca. Ma a Luca Bura in ritardo, mi Claudio. Sì, sono andato a vedere, è curiosone. No, ecco qua, mane. Ciao, Rattari, e beh, avanti, riprendi. Luca, ecco qua, mane, l'hanno arrestato per quello. possibile. E vabbè, se non scherziamo, oh yeah. No, ma a parte questo discorso lì è un fatto molto serio, perché io sono convinto che ci sono tantissime, anzi la maggior parte delle persone sono persone serie, e viene sporcato il quartiere da questi quattro pellegrini che ci sono lì, delinquenti, capita. Io lo dico che ci sono molte, moltissime persone serie, perché ho fatto tanti lavori, è tutta gente che lavora, è tutta gente che paga, è tutta gente educata, però purtroppo esistono questi quattro pellegrini disgraziati che ci sono lì collocati in una maniera assurda, veramente. Speriamo che riescano a debellarle questa massa di gente così indisponibile, per carità. Pucci, che vergogna. Vai Nathalie. Ma in chi lo dico, è sempre stato, capito? Quindi che gli hanno, che sono andati da essere, volevano spacciare per conto loro quei negri, cosa l'hanno fatto? Non hai visto? Ma lo dico sempre, perché tantissima gente, gente che vive dal lavoro, gente che vive anche dalla pensione, tutta gente come si deve, però purtroppo ci sono questi quattro disgraziati, io dico quattro per dire magari 20, che sicuramente ci saranno, che rovinano il buon nome del quartiere. Che porcheria. Avanti Claudio. Non c'è che Donia Rocco per un zoppo. Infatti qua davvero in ogni punto c'è lo zoppo che zoppica continuamente, lo so, purtroppo è così. Io ho servito tante persone, tanti clienti, ho servito lì e devo dire che non ho mai avuto mai e poi mai un piccolo disguido, sempre con i soldi in mano, subito, consegnati al lavoro e subito con i soldi pronti in mano. Magari ci sono proprio queste persone, magari dai, io magari sono stato fortunato che quella gente non l'ho conosciuta, perché se no se avesse servito qualcuno di questi probabilmente avrei avuto problemi anche nell'incassare i soldi del lavoro che io avevo eseguito. Va bene, avanti Nathalie. Non lo sai, sì, è logico che la maggior parte sono persone come si deve, però è sempre chi zoppicheggia, come stai di tutto. E vieni da un bel zoppicheggia in Chivi, avanti in Chivi, va sì, soffintenda a Cuni. Sì, ma sicuramente è così, qualcuno adesso è stato adocchiato e lo stanno pedinando per trovarlo in flagrante, per forza, ma è così. Vai Claudio. Santo, che ne è flagrante in Chivi, Sant'Antonio mio, è una cosa impressionante quel posto, veramente impressionante, non lo so. Purtroppo è così, ecco da che vuole fare. Ogni zona avrà le sue pecore nere, questo lo sappiamo, ma lì è proprio una vergogna, nel vero senso della parola. È troppo. Vabbè, comunque, saremo a vedere, speriamo che riescano a eliminarlo un giorno definitivamente, questo tipo di vita che si svolge lì. Vai Nathalie. Sì, è perché qua non è la stessa cosa, qua è un giro di droga pauroso. E purtroppo Sassari anche da un bel po' di tempo si sta sporcando un po' dappertutto, è vero, però diciamo quando è troppo, ci sono dei posti micidiali, lo so, poi anche lì nella zona San Donato, Baccare dai, con l'avvento, con gli arrivi di queste persone che sono arrivate lì, hanno sporcato alla grande tutta la zona del centro storico di Sassari, e cominciando dalla bassa a Corso Vittorio Emanuele, Santa Polinare, quella zona lì, cioè via San Donato, eccetera, eccetera, per carità, che vergogna. Vai qua. Ma lì È una cosa veramente assurda, eh? È veramente assurda. Non so, vabbè, comunque. Cosa volete che vi dica? È un casino, boh. Purtroppo sì. Vabbè, dai. Tra un po' mi tornerà, penso, Franco. Franco, ci sei? Sei tornato? No, sta ancora sistemando l'attrezzatura. E beh, sei andato là il filo? Cosa stavi collocando, o tu o Claudio, poc'anzi, il filo? Sì, stavo collegando questo microfono che ce l'avevo staccato, stavo facendo il collegamento. No, non ho fatto nessuna saldatura, stavo solo spostando il microfono. Questo è l'MC60, spero che vada bene col 430, la mia radio, penso, no? Sì, a dire che va bene è poco, cioè, la stai denigrando, a dire che va bene, la stai denigrando, guarda. Devi dire che è super, super, super. Per cui, come era buono anche la giorno scorso, stavo facendo dei controlli con la cosa, con la Dunis o cosa era, e io ti sentivo molto bene, sì, un po' più rimbombante come modulazione, però era di una chiarezza eccezionale, no? Sì, un pochino più forte come toni bassi del solito, però era una modulazione anche quella ottima, per me, a me piaceva moltissimo, ottimale veramente. Vabbè, giorni passati, avanti Natalia. Un attimo, adesso facendo una cosa qua, riprendete voi, vi ascolto. Ecco, mi sono entrato. Vai Fra, sì Natali, siamo qua, vai. Sì, per me comunque il microfono, questo MC60 è uno dei migliori che ha fatto la Kenwood, giusto Cla? È rimasto numero uno, no? Non ce n'è microfono che battono 60 così a questi livelli, a questi livelli, poi chiaramente ci sono tanti altri microfoni, però col K per me, per esperienza mia vissuta, questo è il migliore in assoluto. Si potrebbe collegare anche un baracchino normale, cioè modificando i collegamenti e alimentandolo magari esternamente? Sì, Franco Francesco Uranio c'ha l'MC60 sul Presidente Lincoln, mi sembra, esce molto bene, però non ha messo le batterie in termini, infatti gli avevo detto di mettere le batterie e poi non l'ho più sentito, perché chiaramente devi alimentare il circuito di preamplificazione, capito? Altrimenti non sembra un microfono normale, però anche senza batterie ti posso dire che stava andando bene, molto bene. Cioè riesce a commutare anche senza le batterie? Non lo so, questo non l'ho mai provato senza batterie, ma pensavo che non funzionasse. Ma lui c'è l'alimentazione diretta, quindi non lo so che cosa gli abbiamo fatto.